Adesso vi presento Vocaloc. ZHB. È il nome dell'artista. Sempre lento, violento, me. Lento, violento. Lento, violento. E appoggiatevi al davanzale. Domenica 16 aprile c'è un balletto pasquale. Rimini, discoteca Altro Mondo. Con Provenzano ed Agostino non ti fai male. Tranquillo. È il balletto pasquale, nel senso che è il ballo di Pasqua. Numero 16. Aiuto. Dai, io. Questo è l'inferno. Presento Angel, de Gigi D'Agostino. Ciao, è forte questa. Yeah. molla. Aridira, arimolla. Aridira, arimolla. Adana del solo comunque. È molto detto. Siento tu voz que me trasportando. Numero 12. Siento che sta trasportando. Siento. Siento. Luca Noyes. Che sta trasportando. Che sta trasportando. Necesito una liberación. Gigi D'Agostino alla discoteca Nord-Est, via Pomaroli 8, località Caldogno, provincia di Vicenza. I lost you. Gigi Giambello è sempre lento, io lento me. Pigia, e allora pigia pigia. Pigia pigia. Tanta scorda mai. We'll be right back. come si chiama questo brano? E questo è il cielo. È il brano di un amico. Federico Lomanzi. È la canzone di Federico. Giusto. Appoggiatevi ad avanzare. Domenica 16 aprile c'è un balletto pasquale con Provenzano e D'Agostino. Non ti fai male. Rimini, discoteca Altro Mondo. Ci vediamo tutti a Rimini, discoteca Altro Mondo. Non manca un. Alle ore 22:30 inizia a suonare folclorista. Eh? Posto. Allora vi presento una canzoncina, una favola, La Tana del Suono. Titolo? Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ah, ripeti, mi sono dimenticato tutto. Fatico. Sei chiaro. Ginnastica mentale. Ma che ho detto? Ginnastica mentale.

Gigi Slom. È il nome dell'artista. Lento violento me. Affacciatevi alle finestre e appoggiatevi al davanzale. C'è un balletto pasquale. Tutti arrivini, regà. Discoteca Altro Mondo. Discoteca Altro Mondo. Domenica 16 aprile c'è un balletto pasquale. Con Provenzano ed Agostino non ti fai male. Tranquillo. Ci vediamo lì. Metteci una pronta. È ora di finirla, sigla. Sì, è finita. Già, se n'è andata sta puntata, mo mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi folclorista. Non ti devi rattristare, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai il bravo tutti i giorni. Ogni giorno io t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla va a sfumare, perché devo respirare.